Non ci si stanca mai di ascoltare questo brano dei discepoli di Emmaus. È un brano pieno di annuncio di vita e pieno anche di nostalgia. Ci mette dentro un'attesa, ci mette dentro un desiderio della presenza di Gesù. Colpisce sempre quella parola, i quali affermano che Egli è vivo. È stato questo l'annuncio primo. È vivo, l'ho visto, l'abbiamo visto. Che bello, è vivo. Questa è la prima affermazione che la Chiesa ha fatto per tante volte, tutte le apparizioni, e noi le ascolteremo in questo periodo pasquale, tutte le apparizioni con cui Gesù appare ai discepoli per sostenere la loro fede. E oggi la sostiene, se vi siete accorti, celebrando, vivendo con loro l'Eucaristia, la Messa. Si accompagna a loro, spiega le scritture, consacra il pane. La messa che cos'è se non questo? La proclamazione della presenza di Dio in mezzo al suo popolo nelle scritture e la presenza di Dio, di Gesù, del suo sacrificio per mezzo del pane eucaristico. Meriterebbe davvero una meditazione ampia. Io mi permetto ancora un paio di minuti per sottolineare l'importanza della proclamazione anche delle scritture dell'Antico Testamento. A me piace tantissimo leggere e spiegare l'Antico Testamento, sia perché è esso stesso un annuncio dell'azione di Dio, della storia, della salvezza di Dio in mezzo al suo popolo, sia perché è un riferimento a Gesù. Se vi siete accorti, nella Settimana Santa è stato letto nel nostro rito ambrosiano il libro di Giobbe e il libro di Tobia. Sono due antesignani, diremmo, due figure, due ombre del giusto che soffre ingiustamente, di Gesù. E il Salmo 21, il Signore è il mio pastore, non manco di nulla, non parla. I padri della Chiesa hanno sempre letto l'Antico Testamento come sguardo da lontano, ma sguardo su Gesù. E io vorrei con voi leggere, vorrei che voi conosceste l'Antico Testamento proprio come sguardo su Dio e sulla presenza di Gesù in mezzo al suo popolo. E poi questo Gesù che non viene riconosciuto, come mai? Guardate che in nessuna delle apparizioni viene riconosciuto, Perché non è un semplice risorgere come è stato per Lazzaro. Lazzaro ha ripreso la vita di prima, tant'è vero che poi è morto ancora. Gesù no. Gesù riprende una vita trasfigurata. È quella che sarà poi la nostra ripresa della vita quando parteciperemo della risurrezione dei morti. E dobbiamo tenere lo sguardo fisso su Gesù per vedere come sarà la nostra esistenza. E infine questa nostalgia. Signore, viene sera, siamo stati con te, siamo stati così bene, fermati ancora con noi. Ecco, è un po' anche il senso del finire della giornata, è il senso del finire della vita, la nostalgia di Dio. E mi fermo qui perché il cuore vorrebbe andare avanti, ma non è la predica della domenica, è già lunghetta. Ma gustiamo, cari cristiani, la presenza di Dio nella liturgia per mezzo della sua parola e per mezzo del suo corpo glorificato, offerto.